questo minutino lo sfrutto per raccontare, innanzitutto per invitare tutti a venire ai 40 anni di Radio Onda Rossa il 13 gennaio al Cinema Palazzo, che sarà una serata incredibile, iperbolica. E poi il mio pezzo in particolare è tratto da un monologo di George Carlin, un comico americano, che il pezzo si chiama Salviamo il Mondo, dove appunto in realtà prende un po' in giro gli ambientalisti, ma in realtà per prendere in giro gli umani che stanno facendo un gran bel casino su questo pianeta.